The Sound of Science, il suono della scienza, di Maurizio Melis e Giulia Torino. Dalla teoria dell'evoluzione alla conquista della Luna, dal Big Bang alla psicologia delle masse, le grandi frontiere della scienza hanno spesso ispirato i musicisti e le loro canzoni. E allo stesso tempo, grandi canzoni, nate magari per tutt'altra ragione, hanno finito per essere identificate con temi e questioni scientifiche. Ecco perché qui a Sound of Science, a partire da oggi fino al 3 settembre, partiremo dalla musica per riflettere sulla scienza e sugli scienziati. Ogni puntata avrà per oggetto un importante scienziato e il modo in cui le sue idee hanno influito su di noi, personaggi famosi e meno famosi le cui vite hanno avuto non di rado i caratteri di un romanzo. E allora andiamo a cominciare. Maggio 1945, Magnus von Braun ha una missione da compiere e l'opportunità di portarla a termine appare sotto forma di un soldato americano che pedala per le vie di Oberammergau nella campagna bavarese. Gli si avvicina e in un inglese molto approssimativo pronuncia queste esatte parole: il mio nome è Magnus von Braun, mio fratello ha inventato i V2, vogliamo arrenderci. Werner von Braun, classe 1912, ha 33 anni quel giorno, il grado di maggiore dell'SS e un braccio ingessato. E lui è d'aver messo a punto i missili balistici A4 che da mesi cadono su Londra e su Anversa, mietendo migliaia di vittime civili, ribattezzati dalla propaganda nazista Arma di Vendetta 2 o V2. Sarà sempre lui a progettare il Saturno 5, il razzo che nel 1969 permetterà agli astronauti del programma Apollo di raggiungere la Luna e tornare indietro sani e salvi. Un'impresa che nessuno quanto von Braun ha contribuito a realizzare e che ha segnato l'immaginario di una generazione, quasi un punto di non ritorno nella storia umana. La NASA ha definito von Braun indiscutibilmente il più grande scienziato della missilistica e dello spazio. Eminenti scienziati hanno affermato che senza di lui gli USA non sarebbero mai stati sulla Luna. Quasi certamente von Braun è lo scienziato più controverso che sia mai esistito. Siamo a Sound of Science e questa è la sua storia. Giant steps are what you take, walking on the moon. Buonasera da Maurizio Melis e da Giulia Torino, che ci ha appena eseguito uno stralcio di Walking on the Moon, pezzo strafamoso dei Police. Ciao Giulia. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Ma soprattutto buonasera al nostro ospite Umberto Guidoni, astronauta. Benvenuto Umberto. Grazie, Guidoni. Grazie. Astronauta che è stato due volte sullo shuttle, è stato sulla stazione spaziale internazionale anche per un lungo periodo, vero? No, sono stato per un breve periodo, ma era ancora in fase di costruzione. Ah, all'epoca. Ok, e che ha scritto un libro, che si intitola Dalla Terra alla Luna, come il vecchio libro di Giulio Verne, che racconta proprio di questa vicenda e anche di von Braun. Sì, racconta l'epopea del programma Apollo, e quindi parte dall'inizio, dal contributo di von Braun, e poi prosegue attraverso tutte le varie missioni, viste con gli occhi di 40 anni dopo. Ecco, e tutte le canzoni che sentiremo questa sera sono segnate, come questo Walking on the Moon, che chiaramente non potrebbe esistere senza quanto appunto è successo nel 1969. Ecco Guidoni, intanto ti chiedo, che cosa possiamo dire per far capire che razza d'impresa sia stata mandare l'uomo sulla Luna e farlo tornare vivo, come disse Kennedy, nel 1969? Anche qualche numero. Sì, io posso dare due esempi che secondo me sono abbastanza illuminanti. Uno è il fatto che quando Kennedy lanciò la sfida della Luna, era il 1962, e gli americani non avevano ancora mandato in orbita nessun astronauta. Era stato mandato Shepard, ma aveva fatto un volo parabolico, non aveva fatto nemmeno un giro intorno alla Terra. E quindi quando Kennedy disse andremo sulla Luna entro la fine del secolo, i dirigenti della NASA inorridirono, gli venivano i sudori freddi a questa idea. E poi un altro elemento è che quando erano ormai pronti alla missione all'Apollo 11, le stime di successo che i tecnici della NASA davano, quindi di riuscire ad atterrare e riportarli indietro, era del 50%. Caspita. Tant'è vero che quello che allora era poi diventato il presidente dopo Kennedy, cioè Nixon, aveva preparato due discorsi. Quindi questo è il livello di... Possiamo immaginare a cosa fosse riservato il secondo discorso. Esattamente, uno era in caso di successo, l'altro in cui ovviamente... Ecco, c'è una parola chiave che è single point fault. Se ci spieghi che cosa vuol dire e quanti ce n'erano in questa missione? Dunque, ce n'erano diversi, ma quello che secondo me colpisce di più è che il motore di rientro dalla Luna, quindi una volta atterrati poi dovevano ripartire dalla Luna e tornare in orbita per agganciarsi con il modulo che era rimasto in orbita, ecco, il motore per ripartire era un motore unico, aveva un solo comando. Se quella valvola si bloccava, non sarebbero mai più ripartiti. Ecco, c'era, se non sbaglio, un centinaio di robe di questo genere che, se non avessero funzionato, avrebbero determinato la morte di tutti e tre gli astronauti. Se per esempio l'EMA, quando atterrava, aveva un'inclinazione eccessiva perché c'era un sasso sotto, non sarebbero riusciti a ritornare in orbita. A questo proposito, in effetti, nel momento dell'atterraggio, questo me l'ha raccontato di persona Armstrong, perché è venuto a farci visita quando eravamo agli inizi della carriera di astronauta, della nostra classe, è venuto a parlarci della sua esperienza. Quando lui stava atterrando, doveva atterrare in una certa posizione, quando è arrivato sul punto si è reso conto appunto che c'erano dei massi e quindi rischiava di non riuscire ad atterrare esattamente sul piano orizzontale, e quindi si è spostato un po' più in là, e in questo modo quando è atterrato erano rimasti meno di 30 secondi di combustibile, quindi è atterrato praticamente non in riserva, di più, che è un altro di quei single point fault di cui stavamo parlando. Ma veniamo al capolavoro di von Braun, che è il Saturno 5 sì, perché in realtà c'erano altri Saturno che erano più piccoli e servivano per andare in orbita. Tutte le prime parti del programma Apollo erano soltanto intorno alla Terra. Certo. La prima missione vera lontano dalla Terra è stata l'Apollo 8, che ha girato per la prima volta intorno... Che cosa possiamo dire del Saturno 5, davanti ai cui Ugelli, tra l'altro, i propri Police, registrano il video di questa canzone che abbiamo appena sentito? Beh, possiamo dire che era una costruzione gigantesca, alta 120 metri. Se ancora oggi, se uno va al Kennedy Space Center, c'è il VAB, Vertical Assembly Building, che fu costruito all'epoca dell'Apollo, dove veniva appunto messo in fila questo enorme vettore. E è stato utilizzato anche per lo shuttle, ma lo shuttle sembra piccolo in quella grande sala, perché il Saturno era quasi alto il doppio dello shuttle. Abbiamo detto di von Braun, genio assoluto della missilistica, comunque non fu una passeggiata. Adesso parleremo dei successi di von Braun, ma non sono solo stati successi suoi. No, cioè, sicuramente no, anche perché veramente era una macchina complicata. C'erano milioni di parti, bastava che, cioè, anche una probabilità minuscola di imperfezione su ciascuna di queste avrebbe potuto causare un disastro. Quindi è stato quasi un miracolo per la tecnologia degli anni 60. Tanto è vero che il primo lancio fallisce miseramente, dopo 10 centimetri circa tutto prende fuoco, 10 centimetri, e finisce molto male. Ma insomma, abbiamo detto Saturn V, il capolavoro di von Braun, e c'è anche un brano a questo proposito, Saturn V degli Spiral Carpets. Giulia? Sì, è un gruppo inglese, hanno scritto questa canzone nostalgica che richiama la memoria agli anni 60, riferendosi proprio alle scoperte tecnologiche e spaziali. Sì, insomma, che sollevavano anche tante aspettative. E allora ascoltiamo. The Sound of Science, il suono della scienza. Poche ore dopo l'approccio col soldato da parte del fratello Magnus, è il 2 maggio 1945, lo ricordiamo, Werner von Braun in mano agli alleati. E non è solo, con lui ci sono 500 scienziati tedeschi che von Braun ha condotto muniti di documenti falsi attraverso una Germania ormai distrutta, con l'obiettivo di non finire in mano ai russi, notoriamente poco affabili coi prigionieri, agli inglesi, a quanto arrabbiati per la vicenda degli U2, e soprattutto cercando di sottrarsi ai colleghi delle SS che avevano l'ordine di ucciderli di fatto per evitare che finissero in mano al nemico. Restano gli americani, i quali sono consapevoli del valore strategico dei V2, tanto che hanno inserito da tempo von Braun ai primi posti nella lista dei ricercati. Dopo la resa, von Braun e i suoi diventano a tutti gli effetti dei prigionieri. Il 20 giugno 45 vengono spostati negli Stati Uniti e dopo una serie di rapidi trasferimenti finiscono per approdare a Fort Bliss nel Texas, dove vengono messi a lavoro, questa volta al servizio degli americani. All'inizio le condizioni a Fort Bliss sono molto dure. Gli scienziati tedeschi vivono in baracche senza servizi e non hanno libertà di movimento. Progressivamente però le cose migliorano e nel 1950 vengono trasferiti a Huntsville in Alabama, dove von Braun viene messo a capo dell'Army Ballistic Missile Agency con il compito di sviluppare il missile balistico Redstone. Ed è qui che iniziano la seconda vita e il riscatto di von Braun. Nel 1954 il GoPro di von Braun è pronto a mettere in orbita un satellite, ma nel 1956 viene addirittura costretto a zavorrare il proprio missile Redstone per impedire che entri in orbita. Al progetto di von Braun infatti si preferisce il progetto Vanguard della Marina Militare. Von Braun è pur sempre un ex nazista. Se non che il 4 ottobre 1957, prendendo tutti alla sprovvista, l'Unione Sovietica mette in orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik. Il tentativo di replicare a stretto giro con il lancio di un vettore Vanguard fallisce miseramente. Non resta che rivolgersi al gruppo di von Braun, che in pochi mesi modifica il Redstone, inventandosi il Jupiter C, che il 3 gennaio 1958 lancia con successo l'Explorer 1, il primo satellite artificiale americano. È iniziata la gara spaziale che opporrà USA e URSS per i successivi 15 anni e che avrà come conclusione la conquista della Luna nel 1969. When I was young, I told my mom you'll walk on the moon someday. Armstrong and Aldrin spoke to me, Houston and Cape Kennedy, and to watch the eagle landing on a night when the moon was full, and as it tugged tides, I knew that deep inside I too could feel its pull. Lie in my bed and dreamed I walked a sea of tranquility. I knew that someday soon all sail to the moon. The high tide of technology, the dreams had all been taken, and the window seats taken too. And 2001 summer come and gone. What am I supposed to do now that the space race is over? Can't help but feel you. perché Guidoni è finita la gara spaziale? Beh, perché l'obiettivo degli americani era quello di riuscire a recuperare il ritardo e a superare i russi, e lo sbarco sulla Luna ha raggiunto questo obiettivo. I russi erano stati i primi a lanciare il satellite nello spazio, il primo uomo, la prima donna, erano stati i primi su tutto, e quindi Kennedy lanciò la palla avanti dicendo: vabbè, noi non possiamo ormai battere quei record, ma possiamo fare di più, possiamo andare sulla Luna e tornare sani e salvi entro la fine di questo decennio. E una volta raggiunto quell'obiettivo, diciamo così, i russi e gli americani hanno scelto due strade separate. I russi hanno fallito sostanzialmente la Luna, perché nel frattempo anche loro avevano, diciamo, un padre dell'astronautica che però è venuto a mancare proprio in quei momenti lì, quindi hanno perso la possibilità di arrivare sulla Luna, e da quel momento hanno scelto di puntare verso stazioni orbitanti, mentre gli americani hanno puntato su veicoli più sofisticati, che poi hanno dato la via allo shuttle. Ci sarebbe stato un motivo per continuare ad andare avanti e indietro dalla Luna? Spesso si sente dire che anche oggi tornare sulla Luna non ha molto senso, no? Sì, diciamo, mantenere quel livello di costi e di rischi sarebbe stato difficile, perché veramente sono arrivati sulla Luna gli americani mettendo in campo risorse praticamente illimitate. Quanto spesero? Tipo il 5% del prodotto interno lordo? Esatto, nel periodo, diciamo, di massimo sforzo era il 5% del prodotto interno lordo americano. Come dire che l'Italia spende 60-70 miliardi all'anno, sì, sostanzialmente. Sì, il prodotto interno lordo americano è un po', sì, po' appunto, di più. No, come se l'Italia ne spendesse sì, 60 esatto. all'anno solo per le attività di ricerca spaziale. E non solo questo, ma anche dal punto di vista proprio dell'impatto sulla nazione, c'erano 400.000 persone che lavoravano al progetto Apollo, quindi era veramente uno sforzo che non si poteva mantenere a lungo. In più c'erano dei rischi enormi, abbiamo detto prima, certo, che la probabilità di successo era del 50%, e quindi continuare su quella strada sarebbe stato molto, molto pericoloso. E in più c'era un cambiamento epocale, c'era la guerra del Vietnam che ha drenato risorse e che quindi ha reso di fatto impossibile continuare su quella strada. Senta Guidoni, stiamo parlando di Von Braun, che è stato, abbiamo detto, un po' il protagonista assoluto, ma a volte dietro le scene, non so quanti lo conoscessero, ma era un personaggio pubblico, anzi poi parleremo anche di questo. Però senza dubbio gli eroi, diciamo, dell'epopea furono quei 12 uomini, che a questo punto abbiamo capito sono anche tanti, cioè gli è andata bene, diciamo, sì, che hanno messo effettivamente piede sulla Luna. Che tipo di uomini erano? Beh, erano praticamente tutti militari, diciamo, la prima classe degli astronauti, i primi sette venivano tutti quanti dal mondo dell'aviazione militare, ed erano stati scelti proprio per questo, perché erano talmente tante le incognite che hanno mandato persone, diciamo, abituate a guardare in faccia la morte in qualche modo. E poi, man mano che il programma andava avanti, hanno cominciato a pensare anche di poter mandare degli scienziati sulla Luna. In realtà questo non è mai successo, soltanto in un caso, l'ultimo volo sulla Luna, perché sono andati a raccogliere rocce, sì, giusto? Sì, no, anche gli altri le hanno raccolte, però diciamo uno che sapesse che cosa raccoglieva, un geologo, ed è stato l'ultimo viaggio, l'Apollo 17, c'era anche un geologo, è stato il primo non militare, diciamo, nella carriera. Quindi quelli erano veramente un periodo molto particolare in cui proprio la scarsa conoscenza dell'ambiente spaziale richiedeva persone che erano addestrate a rischio. Man mano che siamo andati avanti, dopo il progetto Apollo, è cominciato invece l'era dello shuttle, e lì è cambiata anche. Ecco, c'è un brano molto rappresentativo, uno dei più conosciuti, che è Rocketman di Elton John, che prova a tracciare un ritratto di un astronauta molto diverso in realtà da quello che ci hai appena descritto. Intanto lo ascoltiamo. She packed my bags last night for flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. So much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time to touch down. Run against your feet. I'm not done. there's no one there to raise him yet the day. I'm not the man that think I am at home, recita il ritornello di questa canzone. Non sono l'uomo che credono io sia a casa. È un punto di vista interessante, abbiamo appena parlato un po' del profilo degli astronauti. Questa è una canzone intanto di Elton John che parla di solitudine, di routine. Intanto ti chiedo se a te è mai capitato di sentirti solo o di sentirti travolto dalla routine. Ho qualche dubbio, devo dire. Però questo era il periodo in cui le missioni erano di un singolo astronauta, quindi può darsi che si sentissero soli nello spazio da soli, ma adesso le missioni a cui ho partecipato sono fatte da un gruppo di astronauti, 6-7 astronauti, quindi difficilmente ti senti solo. Non anche avete perché, dei campi da calcio, lo spazio è molto piccolo e anzi diciamo che sono piuttosto affollati. Ecco, invece, appunto, com'è cambiato il profilo, diciamo, degli astronauti di oggi? Che cosa devono avere di diverso dagli astronauti del passato? Già, il fatto di viaggiare da solo in compagnia, non è detto che un buon viaggiatore singolo non sempre anche un buon viaggiatore in compagnia, per esempio. Certamente, questa evoluzione ha, diciamo così, portato una maggiore complessità e anche ha portato qualche nuovo problema. Per esempio, quello della convivenza di gruppi di persone anche di diversa provenienza, di diversa estrazione, perché adesso, per esempio, sono piloti militari, ma ci sono anche civili, scienziati che vengono dal mondo della ricerca, quindi abituati ad altre situazioni. Quindi intanto amalgamare queste diverse provenienze, e adesso poi con l'avvento della Stazione Spaziale Internazionale abbiamo anche differenze culturali e di lingua, quindi tutto questo va preparato prima, e sicuramente le attività spaziali sono diventate molto più complesse, quindi richiedono anche una pianificazione maggiore, tempi di addestramento più lunghi. E soprattutto si fa molta più ricerca, quindi c'è bisogno anche di competenze specifiche, quindi metà almeno degli astronauti viene ormai dal mondo della ricerca, sono ingegneri, fisici, medici e così via, e spero che torneranno i geologi, perché vuol dire che torneremo a mettere piede da qualche altra parte. Sì, se servono i geologi è un buon segno. Ecco, a questo proposito, naturalmente quest'altra parte si spera che sia Marte prima o poi, certo. Ecco, che tipo di astronauti servono per Marte? Lì è un viaggio anche molto lungo, è un viaggio molto lungo, che sostanzialmente terrà fuori dalla Terra un equipaggio per almeno 2 anni, perché quello è il tempo fra l'andata e il ritorno, e soprattutto serviranno conoscenze specifiche da utilizzare su Marte, perché poi questo equipaggio quello sarà solo, perché comunque tutti gli astronauti, anche quelli della Luna, erano a distanze brevissime, quindi potevano trasmettere immediatamente e avere una risposta. Quando saranno su Marte ci vorranno decine di minuti fra un messaggio all'andata e la risposta. Quindi chiaramente se la dovranno cavare da soli, quindi dovranno essere pronti ad affrontare anche problemi concreti, come far crescere il cibo su Marte, utilizzare le risorse di Marte. Fare riparazioni, costruire pezzi in orbita. Sì, per esempio l'idea è quella di usare stampanti 3D, certo, per poter ricostruire un pezzo nel caso servisse. The Sound of Science, il suono della scienza. Bentornati a Sound of Science. Stiamo parlando di Wernher von Braun, il padre della missilistica, che, interrogato sugli effetti letali del proprio lavoro, una volta rispose che aveva fatto quello che ci sarebbe aspettato da qualunque cittadino tedesco. Addirittura in un'altra occasione rispose: il mio compito è far volare i razzi, quello che succede quando vengono giù è un problema di un altro dipartimento. E qui, Giulia, vengo a te. A questo proposito vorremmo farvi ascoltare un brano che si intitola proprio Von Braun, una canzone di Tom Lehrer, che ancora prima di essere un cantante e un pianista è un professore di matematica con la passione per la musica, e si divertiva un sacco a scrivere canzoni dei toni satirici. E nel 65 decise di prendersela con Wernher von Braun e scrisse questa canzone dai toni decisamente non gentili, e in una strofa dice proprio: once the rockets are up, who cares where they come down, that's not my department. Esattamente Wernher von Braun. Allora, von Braun, sentiamola. Gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi, says Wernher von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Wernher von Braun. Dunque, chi era Wernher von Braun? Il nazista ufficiale dell'SS, il costruttore di missili balistici, oppure il geniale progettista del Saturno V, il divulgatore, ne parleremo dopo, che collaborava con Walt Disney per promuovere il sogno dell'esplorazione spaziale e la conquista di Marte? Allora, cerchiamo di capire un po' meglio. Von Braun entra nel partito nazista nel 1937 e diventa sottotenente delle SS nel 1940. Verrà promosso 3 volte da Hitler fino al grado di maggiore e sosterrà più o meno per tutta la vita di essere stato, per così dire, costretto a entrare nel partito nazista e nell'SS, cioè sosteneva di fatto di non aver avuto realmente scelta volendo continuare a lavorare sul volo spaziale, argomenti che naturalmente molti osservatori considerano poco convincenti. Ma il punto più oscuro della carriera di von Braun ha il nome di un luogo ben preciso: Mittelwerk, l'impianto dove vengono costruiti i V2. Mittelwerk è un impianto industriale realizzato all'interno di tunnel scavati nella roccia di una montagna che impiega come forza di lavoro i prigionieri del vicino campo di concentramento di Dora-Mittelbau, dove almeno 20.000 prigionieri moriranno di fatica, stenti o anche nel corso di sommarie esecuzioni. Von Braun e il suo staff non risiedevano a Mittelbau, ma a Piedemunde, da tutt'altra parte, sull'isola di Usedom nel Mar Baltico, da dove potevano effettuare in sicurezza i lanci sperimentali. E non esiste alcun documento che indichi il ruolo di von Braun nella gestione dell'impianto, ma è certo che, almeno in un'occasione, ma di più, e lui stesso ad ammetterlo, abbia visitato l'impianto. E anche se non ci sono prove che in quelle circostanze egli abbia mai assistito a uccisioni o torture, diciamo che è probabile che gliele abbiano risparmiate, né che abbia mai messo piede strettamente nel campo di concentramento, dove le condizioni erano veramente terribili, ecco, nonostante tutto questo, von Braun non poteva essere all'oscuro di ciò che accadeva in quei luoghi. Ma non risulta che abbia mai protestato o sporto qualche tipo di lamentela, anche se in seguito dichiarò di aver provato vergogna per quanto accadeva ad ora. Dunque, Giulia, von Braun non si libererà mai di questa nomea da nazista che in qualche modo lo inseguirà per tutta la vita, e ne è rimasta una bella traccia, direi, anche nella musica, come nel brano che stiamo per sentire, che sembra tanto scanzonato, ma... Sì, il brano che stiamo per ascoltare è cantato da Connie Francis e si intitola He's Just a Scientist, ovvero È solo uno scienziato, un brano che con particolare humor scredita la figura dello scienziato che, rifugiandosi dietro la propria professione, è pronto a fare quasi di tutto. Il brano è stato registrato nel 1961 e pubblicato postumo circa negli anni 80, quindi dopo la morte di von Braun. E qui verrebbe da dire che a pensar male si rischia di azzeccarci. Strano che questo brano rimanga così sepolto fino a quando von Braun è vivo. D'altra parte era un personaggio anche un po' scomodo, von Braun. E allora ascoltiamo. He don't play football, golf or guitar. He's never been on bandstand, Sullivan or Park. fools around with bottles and pills. He's just a scientist. He's so square, he's a cube. He's just a scientist. They take glasses. And he's four. He's just a scientist. I bet so. All the games are won by big and brawny halfbacks. And marshals find the rustlers by their horses' tracks. But who's gonna get us to the moon and back? He'll be a scientist. I think it's inhumane. Sending those poor little monkeys up in that thing. He's just a scientist. I think they ought to be allowed. It ought to be a He's door. Just a scientist. Oh, that's so. Everybody's tripping over Baby M. Oh, Frankie Avalon. But nobody ever seems to give a flip over Dr. Wannabon Trump. Cause he's just a scientist. He's nobody's fool. He's just a scientist. Working on that slide room. Big and tall. He's just a scientist. That's all. Something I've got to get. He's just a scientist. I ain't got mine yet either. He's just a scientist. But I guess we can wait till fall. He's just a scientist. That's so. He's just a scientist. Guidoni, lei che idea si è fatto di Von Braun? Ma io mi sono fatto l'idea di una persona che aveva un progetto, aveva questa visione dell'uomo che lasciava il proprio pianeta e si avventurava verso altri mondi. Lui pensava a Marte in realtà. E di fronte a questo, diciamo così, non ha guardato molto per il sottile a chi rivolgersi pur di ottenere i finanziamenti. Quindi per lui Hitler o la democrazia occidentale erano le stesse, purché gli avessero dato la possibilità di portare avanti il suo sogno. E in effetti poi ha giocato in tutti e due i ruoli, ha giocato, diciamo, nel nazismo, e poi gli americani lo hanno comunque accettato, nonostante il suo passato, che per chiunque altro sarebbe stato definitivo. Anche questa canzone che abbiamo appena sentito non fa altro che dire questo, no? It's Just a Scientist, perché fa un elenco di questi personaggi che, con la scusa, tra virgolette, di fare ricerca, poi hanno prodotto però dei risultati anche a volte terribili, no? Certo, voglio dire, chiunque fosse stato nel suo ruolo sotto il Hitler sarebbe stato messo in galera, diciamo. E nel caso di Von Braun è stata fatta un'eccezione. Ecco, bisogna dire una cosa. Per molti anni questa cosa, diciamo, è stata mantenuta quasi segreta. Soltanto alla fine Von Braun, diciamo, è emerso ed è diventato addirittura il capo del progetto. Insomma, per molto tempo è stato mantenuto segreto. Certo, c'è da dire una cosa: sarebbe stato, secondo me, anche difficile spiegare agli americani perché bisogna mettere in galera Von Braun e non chi ha progettato la bomba atomica, per esempio. O il sospetto, o chi ha deciso il bombardamento di Dresda, che no, rasero al suolo la città, non rimase più niente di alto più di un metro. Ecco, ma ci sono degli episodi che però ci aiutano anche un po' a capire. A un certo punto viene arrestato dalla Gestapo, no? Von Braun. Perché ubriaco sta parlando con alcuni colleghi e dice che, insomma, si lamenta del fatto che invece di usare i suoi missili per mandare l'uomo nello spazio, lui continuava a parlare di mandare uomini nello spazio, per questo lo stavano spiando, perché non piaceva al regime. Non so se c'è qualche altro episodio, forse, che... No, ma la dimostrazione che lui avesse proprio diciamo così il chiodo fisso, e che poi gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi che, insomma, ha raggiunto, è che anche in America tutto sommato le sue progetti sono stati bocciati, perché lui voleva costruire una stazione in orbita per poi da lì puntare su Marte. La Luna, diciamo così, è stata una scorciatoia che in qualche modo gli è stata imposta dal fatto che gli americani hanno puntato sulla Luna per battere i russi. Quindi, diciamo, il progetto di Von Braun era diretto verso Marte, tant'è che lui parlava di città su Marte per la fine del secolo. Il secolo scorso, quindi, insomma, un monomaniaco, possiamo definirlo così, come peraltro molti altri scienziati, no? Hanno in mente solo una cosa, ma anche un grande sognatore. Von Braun è stato fondamentale nel dibattito sull'esplorazione spaziale. The Sound of Science, il suono della scienza. Thank you. Walking in Space di Quincy Jones, in una versione tra l'altro famosa per un musical, Hair. È 14 maggio 1950 quando The Huntsville Times titola, adesso parliamo della così, versione sognatore di Von Braun, titola, dicevo, il dottor Von Braun sostiene che i razzi potranno raggiungere la Luna. E questo del 1950 è l'esordio dei tentativi di Von Braun di convincere l'opinione pubblica americana che la conquista dello spazio è un obiettivo possibile. Nel 52 Von Braun scrive una serie di articoli intitolati L'uomo conquisterà presto lo spazio, in cui pubblica alcuni concetti veramente, Guidoni, assolutamente sorprendenti, decisamente all'avanguardia. Sì, sì, sì, no, lui era sicuramente avanti di decenni rispetto a quella che era anche le conoscenze tecniche del tempo, ed è proprio grazie a questa capacità di guardare avanti che è riuscito in un'impresa titanica, insomma, se pensiamo appunto alla complessità del veicolo che ha realizzato. Dico solo una cosa: oggi se un missile sarà infarcito, non so, di milioni di sensori diversi, perché abbiamo l'elettronica, non c'era all'epoca, non c'era. Certo. Un cellulare di oggi ha una potenza di calcolo milioni di volte superiore a quella del computer usato per mandare l'uomo, esatto, sulla Luna. Basti pensare allo sforzo che è stato fatto appunto per miniaturizzare un calcolatore molto semplice che serviva per calcolare l'orbita, diciamo la traiettoria verso la Luna e la fase di atterraggio. Quindi sì, è sicuramente stato così ed ha affrontato, ha avuto la capacità anche organizzativa di mettere insieme un gruppo che ha funzionato. A Huntsville, diciamo, c'è ancora il ricordo dei tempi di Von Braun. E comunque le prova tutte per cercare di divulgare questa idea del viaggio nello spazio. Collabora a un certo punto con Walt Disney, con cui tra l'altro stringe amicizia. Ne nascono tre film di animazione. La prima di queste tre opere, intitolata Man in Space, trasmessa il 9 marzo del 55, per la prima volta fa 42 milioni di spettatori, in un'epoca in cui parlare di viaggio dello spazio era quasi una roba da matti. Quindi veramente lui fa partire questo dibattito. Volevo capire che se è successo anche a te una cosa del genere. Tra l'altro, insomma, tu in quel periodo avevi tra i 10 e i 15 anni, una cosa del genere. Sullo sbarco sulla Luna, sì, avevo circa 15 anni. Devo dire che quello era un periodo in cui un'intera generazione guardava lo spazio. Era la promessa della nuova frontiera, era l'idea che appunto l'uomo si sarebbe staccato dal pianeta per andare ad abitare su Marte. Quindi questa c'era a livello di generazione, e questo spiega anche il successo delle prime trasmissioni, diciamo, sullo spazio, nonché del fatto che lo spazio diventava popolare in tutti i giornali, nelle riviste, addirittura nelle pubblicità. Insomma, i primi uomini con la tuta argentata avevano segnato la storia. Ne nascono film anche da questi lavori di Basti pensare a 2001 di Seno Spazio, un anno prima dello sbarco sulla Luna. Tra l'altro si è ispirato proprio anche ai progetti di Von Braun, sì, che immagina una stazione orbitante che ruota per creare gravità artificiale. Esattamente, quello era proprio il progetto di Von Braun, di realizzare la stazione spaziale prima di andare sulla Luna. Poi invece le cose anche perché lui non voleva andare sulla Luna, non gliene fregava niente, no, di andare lui sulla voleva Luna, voleva costruire le condizioni per poter andare su Marte, sì. E diciamo il pezzo che forse più di tutti coglie questa atmosfera dell'epoca è proprio il senso dell'impresa che si stava compiendo, questa idea dell'esplorazione che torna a diventare, dopo forse le grandi esplorazioni del passato, torna a riaffacciarsi. E questo pezzo è senz'altro Space Oddity di David Bowie, che vi facciamo ascoltare così. And may God's love be with you. Lift up. ground control to Major Tom. You really made the grade. And the papers want to know whose shirt to wear. Now it's time to leave the capsule. Ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars looks very different today. Senti Guidonio, ti invidio molto perché tu conosci uno che è riuscito anche a suonarla nello spazio, questa canzone. Sì, sì, io ho fatto il mio secondo viaggio nello spazio con Chris Hadfield, che era appunto mio collega su quel volo, e che poi è tornato sulla stazione spaziale e ha avuto l'occasione di suonarla direttamente dalla stazione spaziale. Tra l'altro è una versione molto bella in cui ha cambiato alcune parole, sì, per essere preciso. Per essere più preciso nella situazione della stazione. Touch the station, per esempio, esatto. Invece che check ignition, no? Qualcosa del genere. Ecco Giulia, c'è un aneddoto che riguarda proprio questa canzone in relazione all'altra che abbiamo ascoltato prima, Rocketman. Sì, esatto. David Bowie non ha mai mandato giù Rocketman di Elton John, l'ha sempre definita una sorta di scopiazzatura. Innanzitutto la tematica era la stessa, avevano anche lo stesso produttore. Sono usciti a brevissima distanza. A 3 anni di distanza, esattamente. E durante una trasmissione radiofonica David Bowie non è riuscito a resistere e ha dovuto per forza sminuire il brano di Elton John cantandoci sopra I'm just a rocket man, non solo I'm a rocket man. Come dire, sono uno schisciabutun, direbbe mia nonna. Esattamente. Senta Guidoni, nel finale di Space Oddity l'astronauta si perde nello spazio e in effetti le esplorazioni del passato hanno spesso comportato dei grandi rischi. Oggi mi sembra che effettivamente invece non siamo più disposti ad accettare rischi, cioè anche la NASA, adesso vediamo le imprese private cosa facciamo perché è un altro ragionamento nel quale vorrei coinvolgerti, ma la NASA senz'altro ragiona con l'idea che il rischio debba essere zero. Che cosa ne pensi? Diciamo che il rischio non si può togliere, no, non si può, certo, azzerare, si può ridurre, ed è questo l'atteggiamento degli ultimi anni, quello di ridurre al minimo il rischio. Una parte di rischio c'è inevitabilmente ogni volta che tu affronti una situazione nuova, e come potrà essere il viaggio di Marte, però proprio per ridurre al minimo questo rischio bisogna preparare gli uomini che ci andranno, bisogna preparare le tecnologie che ci permetteranno di fare il viaggio, ed è esattamente questa la strada. Lo shuttle era considerato un veicolo sicuro finché poi non sono stati finché non è saltato per aria, purtroppo mortali. Ecco, ma per esempio progetti come Mars One, dove si propongono di arrivare su Marte senza progettare il viaggio di ritorno, perché dicono la cosa difficile, più difficile è tornare, quindi ci risparmiamo il ritorno, restiamo lì a vivere. Beh, quella francamente la trovo più una trovata pubblicitaria, non credo che avverrà mai, anche perché non che manchino le persone che ci vogliono andare. E infatti, ma credo, anche eminenti scienziati anche, in qualche caso. Sì. Ma credo che sia difficile da immaginare, soprattutto perché se veramente volessero mantenere quello che hanno detto dovrebbero aver già preparato il veicolo, e invece non l'hanno ancora fatto, quindi secondo me non avverrà. Cosa ne pensi invece di Elon Musk e di tutto questo progetto? Intanto questo signore è riuscito a fare atterrare dei razzi in verticale, che era una cosa che la NASA voleva fare da sempre praticamente. Tanto questo l'ha fatto. Cosa ne pensi? Sì, beh, c'è da dire che del fratello sono passati 40 anni. No, lui ci è riuscito ed è sicuramente una persona in gamba, che ha anche lui una visione, anche lui vuole portare gli uomini su Marte. E credo che sicuramente è un'iniezione, come dire, di positività e anche di risorse che non guasta, che potrà avere l'effetto di accelerare il processo. Anche perché lì secondo me mi sembra che ci sia il metodo di operare dell'industria privata, che è molto diverso. Cioè se una strada non funziona, Musk l'abbandona, la NASA, se ha dato un stanziamento a un dipartimento, quello va avanti, quello finché, non finisce i soldi. Fondamentalmente. No, quello che c'è da dire è che lui forse ogni tanto pecca anche lui di ottimismo, certo. Nel senso che le date che si è dato per portarci su Marte mi sembrano francamente poco realistiche. Però ecco, quello è il pungolo forse necessario per accedere la corsa verso lo spazio, che stavolta non è più in contrapposizione fra due grandi potenze, ma forse è fra i privati che in qualche modo fanno da apripista, e la NASA che secondo me con un po' di saggezza e diciamo guarda soprattutto all'aspetto sicurezza, che non guasta. E vabbè, insomma, Marte che era il sogno di von Braun, sogno che von Braun ha capito non si sarebbe avverato, non durante la sua vita, quando la NASA sposa il progetto Shuttle, giusto? Sì, chiaramente dopo i risultati dell'Apollo, lo sbarco sulla Luna, lui è tornato alla carica per spingere verso Marte, ma lì si è scontrato con altre esigenze. La NASA ha costruito un veicolo diverso, fatto per andare in orbita, per essere riutilizzabile, e quindi chiaramente quella strada non ci avrebbe portato su Marte. Von Braun lascia nel 72, l'ultimo Apollo. L'ultima missione Apollo. Lascia la NASA e 5 anni dopo lascia invece questo mondo, e non per la Luna. Al suo funerale suonano le note di un pezzo che è, da molti punti di vista, diciamo così, l'inno nazionale di quella strana nazione degli astronauti, perché siete un po' una nazione quando siete lì nello spazio, anche se venite da paesi diversi. Ed è anche la stessa canzone, ovviamente non è un caso, che ascoltavano gli astronauti dell'Apollo 11 mentre stavano per mettere piede sulla Luna. E naturalmente, Guido, te la dedichiamo per chiudere, visto che tu, insomma, è un po' il tuo inno. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. E con questo è davvero tutto, grazie ancora Umberto Guidoni per essere rimasto con noi. Grazie a voi per avermi riportato ai tempi della Luna, che comunque rimangono il punto più alto del viaggio spaziale umano. Grazie anche a Filippo Aureggi in regia, da Maurizio Melis e da Giulia Torino. Un saluto e appuntamento a settimana prossima.